Spaghetti, spaghetti con sola di Cecilia, spaghetti, spaghetti da Roma Marachiar, spaghetti, spaghetti per tutta la Versilia, spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti da Rimini a Palenza, spaghetti, spaghetti di Capri che bontà, spaghetti, spaghetti a Dice che fragranza, spaghetti, spaghetti, cia cia. E così da chi ma viene qua, l'Italia conoscere si fa, ma è solo meglio pubblicità, più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala, spaghetti per tutti, serviti a volontà. Spaghetti, spaghetti, da Brenner a Marsala, spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti, cia cia cia. Spaghetti, spaghetti, cia cia cia. Spaghetti. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala, spaghetti per tutti, serviti a volontà. Spaghetti, spaghetti, no Brenner e Marsala, spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti, cia cia cia. Spaghetti, spaghetti, cia cia cia. Spaghetti, spaghetti, cia cia cia. Thank you.